anche le foche bevono Radio Wombat. Buonasera, buonasera a tutte le persone qui in ascolto sulle frequenze di Radio Wombat. Questi sono i recuperi vinilici del sabato sera di Basement Records, prima puntata del 2023 per Basement Records. Questa ovviamente era la classica sigla di apertura ormai di Leslie Fair Sound con Psyche Rock, raccontata ormai così tante volte, quindi penso che possiamo tranquillamente andare avanti e ricordare come di consueto tutti gli indirizzi per mettervi in contatto qui con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre lo stesso, radiowombat.net, così come anche la frequenza su cui potrete trovarci se vi trovate nell'area metropolitana fiorentina e soprattutto se avete una radiolina o un autoradio che può andare in AM, come chiamiamo gli amici, le onde mediocri in modulazione di ampiezza, mi raccomando, in AM 1359 1359 se vi trovate nei dintorni dell'area metropolitana fiorentina. Il nostro indirizzo di posta è sempre lo stesso, anche quello, posta wombat@insiberia.net. E i nostri canali social rimangono sempre quelli, su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. E ricominciamo appunto da dove eravamo rimasti con l'ultimo recupero del 2023, ovvero il pacchetto è rimasto sempre lo stesso, i 7 pollici, un sacchetto di 7 pollici ritrovati appunto in un armadio. E devo ringraziare per quest'ultimo recupero DJ Stefanone, che ringrazio e saluto calorosamente nel caso in cui fosse all'ascolto. Voglio ricordare che questi appunto sono, oltre a essere solo 7 pollici, 45 giri, sono solamente del quinquennio 1967-1973. Quindi nemmeno un quinquennio, di quei 6 anni, quindi chicchine proprio d'antan, e ce ne sono diverse di chicche, un bel po' ve ne ho fatte già ascoltare nella precedente puntata, ma continuiamo appunto con questa busta piena di meraviglie a 7 pollici a 45 giri. Il primo che ci andremo ad ascoltare nella puntata di stasera, siamo nel 1972, l'ambito è quello del folk rock, un folk rock decisamente d'autore, visto che si tratta del primo singolo uscito nella carriera di un grande folk rocker, ovvero di Jim Croce, e questo fu un singolo di discreto successo, visto che Jim Croce al suo debutto con questa You Don't Mess Around with Jim si piazzò addirittura al numero 8 della classifica generalista di Billboard, quindi neanche nella classifica specifica del folk, ma ebbe così tanto successo che arrivò addirittura nell'ottava posizione della classifica generalista. Un brano che vale, secondo me, assolutamente la pena di ascoltare, perché dopo 50 anni è ancora, devo dire, si fa ancora ascoltare molto bene, e racconta la storia di Big Jim Walker, un giocatore d'azzardo, in special modo di biliardo, che diciamo è un po', come si direbbe a Firenze, il tira del paese. Infatti, in una precedente sfida di biliardo aveva sfidato Willie McCoy, che era un forestiero del sud dell'Alabama. E Willie McCoy aveva vinto, ma era stato, diciamo, non molto gentilmente buttato fuori dalla sala da biliardo dove Big Jim Walker usava uscire. Però la settimana successiva, nonostante i consigli di tutti gli avventori, che era appunto you don't mess around with Jim, quindi no, non scherzare con Jim, si ripresentò il buon Slim, e andiamo un po' a sentire com'è finita questa disputa sui soldi da avere su una partita di biliardo. Questo è Jim Croce, direttamente dal 1972, con You Don't Mess Around With Jim. rigorosamente a 7 pollici, qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente sulle frequenze di Radio Wombat. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that, dee-dee-dee-dee-dee. Well, out of South Alabama come a country boy, said I'm looking for a man named Jim. I am a bull shooting boy, my name is Willie McCoy, but down at home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street, he drive on a drop top Cadillac. Last week he took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say, Jack, don't you know, you don't tug on Superman's cape, you don't spin into the wind, you don't pull the mask off that old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Ba-do-do-da-da. In Norfolk Street, and when the cutting was done, the only part that wasn't bloody was the soles of the big man's feet. Yeah, he was cut in about 100 places, and he was shot in a couple more. And you better believe I sung a different kind of story when a Big Jim hit the floor. Insomma, il finale, alla fine, invece che Don't Mess Around with Jim, è diventato Don't Mess Around with Slim, perché appunto poi Slim fece pagare molto caro questo debito a Jim, appunto tornando nella sala biliardo e facendolo fuori per il debito contratto. Storie del sud degli Stati Uniti del 1972, comunque devo dire un gran pezzo per Jim Croce, molto roccheggiante, anche se non sono un grandissimo appassionato proprio del genere, ma mi ha questo primo singolo di Jim Croce mi è piaciuto particolarmente, e ho pensato che valesse la pena appunto riesumarlo dall'inizio dagli anni 70, anche perché appunto è come se mi fosse venuto incontro, ritrovato in questa busta di 45 giri dispersi da diverso tempo ormai, devo dire. Meno male che è ritornato alla luce. E il prossimo 7 pollici che andremo su cui andremo a porre la puntina sopra i solchi, varchiamo l'Atlantico, torniamo indietro di un paio d'anni, siamo nel 1970, siamo in Italia con i New Impression, gruppo fondamentalmente beat, però devo dire che questa canzone è particolarmente prog per essere definita solamente semplicemente beat. Anche questo è un brano notevole di cui devo ammettere la mia assoluta ignoranza prima di essermelo andato a riascoltare. E i New Impression sono stati un gruppo beat italiano di inizio anni 70. Questo è il loro primo singolo proprio del 1970, ne seguirono altri tre poi successivamente fino al 1973, devo dire non con un grande successo commerciale. Infatti durarono il periodo di tre singoli e poi i New Impressions si sciolsero. Per onore di cronaca andiamo a ricordare i membri dei New Impressions, che erano Benny Gailbotti, Binni Calati, Gianfranco Bordin, Gigi Rizzi, Pino Scarpettini e Ricky Merola. Allora andiamoci ad ascoltare questo beat italiano con pesanti venature prog, devo dire, direttamente dal 1970 italiani. Comunque devo dire che, essendo finiti in quella famosa busta, evidentemente un minimo di successo devono averlo avuto, visto che Stefanone se l'è ritrovati per metterli poi in onda alla radio ai tempi, quindi un minimo, seppur minimo, successo devono averlo pur avuto. E quindi non tergiversiamo oltre, andiamoci ad ascoltare questi New Impressions con Ride My Seesaw, direttamente dal 1970, e siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records sulle frequenze di Radio Wombat. E dove se no? Good night. Oddio, più che progressive devo dire che mi sono sembrati più psichedelici adesso a riascoltarli, però sicuramente definirli solamente beat mi sembrava riduttivo, ecco, notevoli, soprattutto con tutte queste voci così effettate, questo suono così compresso e riverberato, non era un mio svarione al mixer, che comunque a volte capita, lo devo ammettere, ma era proprio la registrazione che era volutamente manipolata in questo modo, e quindi mi sembrava veramente molto riduttivo definire questi new impression solamente beat. Le definirei beat psichedelico più che progressive, adesso che ce li siamo riascoltati insieme. Però passiamo al prossimo singolo. Rimaniamo nello stesso anno, nel 1970, però rimaniamo in Europa, soltanto questa volta varchiamo il Canale della Manica e andiamo in Inghilterra con questo singolo edito da Pye Records, ed è anche questo un altro debutto, è il singolo d'esordio come solista di Paul Brett Sage, chitarrista inglese famoso per aver lavorato come chitarrista appunto per diversi altri cantautori e altre band, come ad esempio con Roy Harper, come Al Stewart, Arthur Brown, i Velvet Opera e gli Strobes. Poi appunto iniziò nel 1970 la propria carriera solista, che anche per lui non durò moltissimo. Infatti il suo ultimo lavoro risale al 1973, ma poi nonostante smise di pubblicare album e canzoni a proprio nome, rimase nell'ambito della musica, e più che altro, più che musicale, prettamente liutistico, visto che collaborò alla creazione di diverse tipologie di chitarre e dando le sue importanti consulenze per quanto riguarda la costruzione dello strumento, quindi andando a collaborare con ditte che costruivano chitarre sia a 6 che a 12 pollici. Questa è una particolarità, infatti, se non ricordo male, ci fu proprio una sua chitarra, cioè sua, una sua Signature Series, come si chiamano, a 12 corde. Non mi ricordo il marchio, però c'era una Brett Sage Signature Series a 12 corde. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare questo suo esordio da solista del 1970 con il nome di Paul Brett Sage, e questo singolo d'esordio ha il titolo di 3D Mona Lisa, e stiamo andando, credo, proprio in ambito del rock psichedelico. Però non vorrei ricordarmi male come prima, e prima andiamocelo ad ascoltare insieme, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente, su Radio Wombat. Well, your canvas are getting faded, your eyes have lost their shine. Your frame is housing woodworm, though your smile still freezes time. Oh, everybody, I'm out of my life, your brushwork, it's a pleasure to be near. would you accept the compliment from a lefty cavalier? For everybody, read the Mona Lisa. Come on, take a bow. Read the Mona Lisa. Oh, I'd like to show you how. Yes, I'd like to show you how. The doors are closing, the clock is striking nine. Oh, climb out of your picture frame and climb with mine. Oh, everybody, I'm out of my back, your brushwood. It's a pleasure to be near. But you accept the compliment from the laughing cavalier. Oh, come on, pretty Mona Lisa. Come on, take a bow. Questa era 3D Mona Lisa di Paul Brett Sage. Anche questa mi è piaciuta notevolmente. Anche lui un artista di cui ero praticamente all'oscuro, nonostante le sue tante collaborazioni, però non conoscevo prima di ritrovare questo 45 la sua carriera solistica. Notevole chitarrista, devo dire, davvero niente male. E adesso il prossimo 45 giri che verrà messo sul piatto è una presenza direi pressoché abituale ormai in diverse puntate di Basement Records, specialmente quelle con i vinili prestati da Stefanone. Infatti stiamo parlando di Brian Auger and the Trinity. In questo caso era nel periodo in cui alla voce, tra l'altro, c'era la mitica Julie Driscoll. Ci siamo ascoltati un brano, se non ricordo male, del 67 di Brian Auger and the Trinity nella precedente puntata di Basement Records, che era Red Beans and Rice, se non Rice and Red Beans. Qui invece è di qualche anno successivo, infatti stiamo parlando del 1969, sempre comunque alla fine degli anni 60, e anche questa è una cover, fondamentalmente Brian Auger and the Trinity reinterpretavano a modo loro, con il loro piglio jazz rock, rhythm and blues, quello che poi verrà chiamato anche con un po' di prodomi del funk in alcuni brani. Insomma, erano artisti veramente che si muovevano molto tra le varie categorie, non erano ben identificabili, anche perché le loro capacità strumentali gli permettevano di svariare in svariati ambiti. E questa cover invece è un traditional, Take Me to the Water, che è un traditional della storia americana, in questo caso ripreso con l'arrangiamento fatto da Nina Simone, che aveva pubblicato appunto questo brano riarrangiato proprio da lei stessa, da grandissima pianista e arrangiatrice qual era, l'aveva riadattato al suo mood musicale, e Brian Auger and the Trinity usano il suo arrangiamento in questo caso per dare la loro interpretazione di questo traditional. Questo è, appunto, come già detto, un brano uscito nel 1969, e questa versione è una versione con etichetta Marmalade Original Recordings. E appunto andiamoci ad ascoltare Julie Driscoll con Brian Auger and the Trinity, con questa Take Me to the Water, nella versione in realtà originale, appunto, come detto, di Nina Simone, ma qua reinterpretata dal grande gruppo di Brian Auger. Se riesco appunto ad inserire il disco nel centrino, adesso possiamo partire e andarci ad ascoltare questa chicca del 1969, qua ai vinili di recupero di Basement Records, sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Take me to the wall. I'm going back home where I was notevole, notevole veramente, e con il senno di poi si sente proprio che è l'arrangiamento e la versione di Nina Simone, però molto molto bella anche questa versione di Brian Auger and the Trinity insieme alla voce di Julie Driscoll. E si svariava appunto tra il gospel, il jazz, il rhythm and blues, come avete potuto sentire, notevole, devo dire notevole. E andiamo al prossimo sette pollici. E anche loro, anche questa band, i Three Dog Night, è una band che abbiamo già incontrato quantomeno un'altra volta qui a Basement Records, una band che, di cui magari non è proprio rimasto il mito, quantomeno qua in Italia, nonostante sia stata una band che nella sua carriera dal 1969 al 1975 abbia registrato più di 20 hit che sono riuscite a entrare tra le prime 40 della classifica americana di Billboard, e addirittura con tre pezzi che riuscirono a raggiungere addirittura la prima posizione in classifica. Non sono proprio tra le band di cui si è rimasto così forte il ricordo come altre di quel, come tantissime altre di quella fine degli anni 60 e inizio 70, però appunto anche loro ebbero una notevole carriera, visto tutti i successi che avevano raccolto. Questo è un vinile, è un 7 pollici originale americano della Stateside Recording, e questa versione di questa canzone dei Three Dog Night è One. E tra l'altro, una curiosità, questo nome curioso deriva, la band è americana, però il nome deriva da un vecchio detto australiano che definiva per definire le notti particolarmente fredde, in cui appunto servivano, il detto era che servivano almeno tre cani per riuscire a tenerti caldo, con i tre cani intorno, appunto. È un modo di dire australiano per le notti particolarmente rigide, come tra l'altro ora finalmente è arrivato per i miei gusti anche qua, dopo un dicembre particolarmente, diciamo, usiamo un eufemismo, tiepido. Ora si sente già, inizia già ad arrivare un po' di frizzantino per questo gennaio, e per i miei gusti speriamo che continui così. Però non tergiversiamo e andiamoci ad ascoltare questa One dei Three Dog Night 1969, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Number one. E questi erano i Three Dog Night con One dal 1970, se non, anzi 1969. E andiamo avanti di un paio di anni e andiamoci a procurare, appunto, a prendere il prossimo nella lista dei singoli dei 7 pollici a 45 giri che ci andremo ad ascoltare stasera. E il prossimo vinile è di una band australiana di formazione che aveva iniziato ad incidere in Australia a metà degli anni 60, infatti tra il 65 e il 68 incisero un po' di singoli, appunto, nella natia Australia, per poi decidere di trasferirsi nel Regno Unito, dove con alterne fortune nel 1972, anno in cui risale questo singolo che ho qua tra le mani, incontrarono un certo ragazzo dal nome di Rod Stewart e decisero di incidere la sua voce piacque, non si sa come mai, avevano orecchio, c'è da dire, i Python Lee Jackson, e decisero di incidere un singolo con la voce, appunto, di questo giovane Rod Stewart. È inutile dire che fecero il loro più grande successo mai inciso fino ad allora, finirono nelle classifiche, ma purtroppo per loro quella con Rod Stewart fu solo un'ospitata. Infatti poi, come sappiamo, Rod Stewart troverà il definitivo lancio della sua carriera con i Faces, band che in realtà inizialmente si chiamavano Small Faces, altrettanto famosi, devo dire. Soltanto poi, quando il cantante Steve Marriott mollò la band per formare la propria band personale, gli Humble Pie, gli Small Faces rimasero senza cantante e incontrarono e fecero un'audizione, appunto, a Rod Stewart, e il resto, diciamo, è storia. Tra l'altro, nota a margine, mica tanto a margine, devo dire, che sia negli Small Faces che poi nei successivi Faces il chitarrista era un certo Ronnie Wood. Non so se vi dice niente questo nome, un ragazzo che poi andrà a fare il chitarrista in un certo gruppo un certo gruppo inglese che si chiamavano Rolling Stones, appunto. E Ronnie Wood inizialmente, prima di entrare negli Stones, per sostituire la dipartita di sappiamo chi, andò poi, appunto, mollò anche lui i Faces e andò a suonare con i Rolling Stones, il buon Ronnie Wood. Mollò i Faces nel 1975. E però, appunto, torniamo sui nostri passi, ritorniamo al vinile che stiamo per mettere, appunto, sopra il giradischi, e questo è il singolo del 1972 dei Python Lee Jackson, con ospite Rod Stewart alla voce, e questa è In a Broken Dream. Sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Don't push your luck too far. Promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Oh. Questi appunto erano i Python Lee Jackson con la voce del giovanissimo Rod Stewart. Questa era In a Broken Dreams. E con il prossimo brano andiamoci ad ascoltare un altro grande gruppo, sempre di quegli anni 70. Siamo sempre nel sempre nello stesso anno, 1972. Restiamo in terra d'Albione, restiamo in Inghilterra con un'altra band che poi farà la storia in ambito in ambito rock senza ombra di dubbio, però fu una delle prime band ad essere definita space rock, e stiamo parlando degli Oakwind. E con il loro Qui per le mani, o il loro primo singolo di grandi, non il primo singolo in assoluto, ma il loro singolo, quello che fu il primo grande successo del 1972, ed è Silver Machine. Infatti la band si era formata 3 anni prima, nel novembre del 1969, però raggiunsero il primo successo a livello nazionale e poi internazionale nel 1972 con questa Silver Machine. Tra l'altro, ora che vedo, che leggo, uscita il 9 giugno del 1972 per l'esattezza. E una particolarità è che fino ad allora gli Oakwind non erano mai apparsi in televisione, anzi erano abbastanza restii a farsi riprendere da una cosa che ritenevano profondamente commerciale. Però quando questo singolo, questa Silver Machine, raggiunse addirittura la terza posizione delle classifiche inglesi, com'era di routine, la BBC alle band che raggiungevano le prime posizioni nelle classifiche inglesi, diciamo che un po' tra virgolette le obbligava ad essere ospitate alla trasmissione storica e leggendaria che si chiamava Top of the Pops. Però gli Hawkwind erano, per usare un eufemismo, decisamente restii a prestare la loro musica e il loro modo di essere ad una cosa così commerciale, cioè, talmente così commerciale perché tra l'altro andavi lì per pura promozione era tutto in playback comunque, stile festival bar, diciamo, da noi. E questa cosa agli Hawkwind non andava assolutamente giù e non intendevano mollare di un centimetro su questo punto. Però alla BBC non ci sentivano da quell'orecchio, ovvero non volevano, per evitare cose particolari che magari a qualcuno gli venisse qualcosa in mente da dire che non era prettamente stato deciso prima, non accettarono di farli suonare dal vivo. Allora, visto che ormai questo singolo, questa Silver Machine, aveva raggiunto la posizione numero 3 delle classifiche inglesi, cercarono di trovare un compromesso e sia la band che la BBC decisero di mandare come spot per appunto questa Silver Machine una registrazione di un loro concerto di poco prima del 7 giugno del 1972 alla Dunstable Civic Hall. E allora riuscirono ad arrivare a questo compromesso. Non erano dal vivo, ma non cantavano nemmeno in playback, e allora tutti contenti, e questa Silver Machine andò in onda a Top of the Pops. E penso che valga la pena di ricordare la formazione del 1972 degli Hawkwind, perché c'era Robert Calvert alla voce, Dave Brock alla chitarra, Nick Turner al sassofono e al flauto, un certo Lemmy Kilmister al basso. Non so se anche questo nome vi dice qualcosa, il grande Lemmy, che poi andrà a formare dopo una breve parentesi negli Hawkwind, come sappiamo andrà a formare i Motörhead. Poi c'era un doppio sintetizzatore con Dick Meek e Del Detmar ai due sintetizzatori e Simon King alla batteria. Questi sono gli Hawkwind nella formazione del 1972 con il loro primo grande successo Silver Machine. E ricordatevi che siete sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records e siete sempre sulle frequenze di Radio Wombat. No, devo dire che non era un sound molto, molto top of the pops, ecco. E capisco anche il punto di vista degli Oakwind ed anche del perché furono definiti fra le prime band a suonare space rock. C'era questo effetto di questi due sintetizzatori in realtà con questo suono di chitarre e di basso molto quasi hard, però questo effetto straniante dei due sintetizzatori gli dava proprio questo effetto space rock. E appunto capisco che il palco di Top of the Pops non era proprio il loro luogo preferito, però ecco, torniamo fra di noi e andiamo al prossimo singolo che ci andremo ad ascoltare. Rivarchiamo un'altra volta l'Oceano Atlantico, torniamo in America, cambiamo anche decisamente genere, perché qua andiamo sul rhythm and blues, sul soul, con questo 7 pollici di Gene Chandler, che in realtà aveva iniziato tanto. Questo singolo è del 1970, ma la carriera di Gene Chandler iniziava quasi 20 anni prima in ambito soul, con il suo esordio di carriera con i Gaytons. Poi proseguì agli inizi degli anni 60, iniziò a suonarci nella nuova band all'incirca verso la metà degli anni 50 con appunto i Duke Ace, però raggiunsero il primo successo solamente nel 1963 con il primo loro singolo di successo in puro stile rhythm and blues, che si chiamava The Duke of Earl, che comunque ebbe veramente un discreto successo, quantomeno in ambito della classifica specialistica del rhythm and blues. Però il nostro Gene Chandler si era ulteriormente appassionato al mondo della musica e volle mettersi alla prova, oltre che come cantante, anche come produttore, e inaugurò due proprie etichette sonore, la Bamboo Records e la Mr. Chand, e proprio su una di queste due etichette, che poi verrà pubblicato in concessione sulla Mercury Records, raggiungerà il suo secondo grande successo, quantomeno a livello degli Stati Uniti, nel 1970 con questo vinile che ho appunto qua nella mia mano sinistra. Il singolo si chiama Groovy Situation, è proprio a suo nome, proprio edito come Gene Chandler, non era più appunto con i Duke Ace. E appunto vale assolutamente la pena andarsi ad ascoltare questo successo soul, rhythm and blues, questa Groovy Situation riuscì ad arrivare nella posizione numero 8 della classifica rhythm and blues e addirittura nella numero 12 della classifica generalista di Billboard, che per un artista rhythm and blues in quegli inizi degli anni 70 non era poi così scontato, anche se appunto c'erano dei grandi precedenti, ma si stava parlando di dei giganti. Diciamo che Gene Chandler è un grande, ma rispetto a nomi come Marvin Gaye, Sam Cooke e compagnia cantante, insomma, lo possiamo tranquillamente definire un minore, senza offesa per il buon Chandler, però questa groovy situation ne vale assolutamente la pena di essere recuperata. Dal 1970, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, sempre sulle frequenze di Radio Wombat, questo è Gene Chandler con la sua Groovy Situation. Questo era Gene Chandler con Groovy Situation. Non so se avete notato o avete fatto caso a questo bel basso sbarazzino, che penso sia uno dei motivi per cui sia stata chiamata appunto Groovy Situation. Però appunto di basso sbarazzino, chi di basso sbarazzino colpisce, come si dice, e quindi il prossimo 45 giri che ci andremo ad ascoltare con questa bellissimo centrino verde bello acceso, edito su Alston Records. Siamo sempre più o meno in quegli anni, qualche anno successivo, infatti sentirete che questa evoluzione del soul starà andando verso diciamo, anche con questa ritmica, con questo basso molto presente, ci porterà poi a un qualcosa che assomiglierà abbastanza a quello che poi verrà definito funk. Qui siamo sempre in ambito soul funk comunque. E andiamo all'anno successivo. Questo è un album della fine del 1971. L'artista è Betty Wright. Questo è uno dei suoi singoli di maggior successo, che era contenuto nel suo secondo album Love the Way You Love, del 1900, poi uscito nel 1972. Questa Clean Up Woman era appunto il singolo che precedeva l'uscita dell'album, e la B-side di questa versione originale americana edita appunto su Alston Records conteneva I Love You Forever, che però già volevo farvi sentire il grande classico, volevo farvi sentire Clean Up Woman, che poi tra l'altro raggiunse anche un discreto successo, visto che vendette più di 2 milioni di copie e riuscì a raggiungere il disco d'oro nel mercato americano alla fine del 1972. E tra l'altro il lick di chitarra in questa Clean Up Woman è suonato da Willie Little Beaver Hale. E appunto andiamoci ad ascoltare quella che era stata segnata sul centrino come hit side, ovvero Clean Up Woman. Questa è Betty Wright alla fine del 1971, diciamo anche inizio 1972. Siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, un'altra serata rigorosamente a 7 pollici, e siete sempre qua sulle frequenze di Radio Wombat. notevole anche questa Clean Up Woman di Betty Wright, inizio del 1972. Però ancora facciamo un passo indietro, non tanto come anni, perché rimaniamo comunque in quell'anno, rimaniamo sempre in America, siamo nel 1972 e torniamo ad una, anche questa una vecchia conoscenza qua dei recuperi vinilici di Basement Records. Infatti stiamo per mettere su questo 7 pollici di Lou Rawls, grande artista soul di quegli anni, chicagoano di nascita, e infatti crebbe insieme a due autentiche leggende del soul e della black music come Sam Cooke e Curtis Mayfield, e infatti le coordinate diciamo che sono più o meno quelle. Ora io ho un'assoluta venerazione per Sam Cooke e Curtis Mayfield, quindi anche Lou Rawls non me ne voglia, però per i miei gusti personali forse lo metterei solo un gradino sotto a questi due, che per me sono due autentici giganti della black music. Però anche Lou Rawls ha avuto una carriera lunghissima e costellata da una serie di grandi successi, ha collezionato veramente tantissime hit nella sua fortunata carriera, e addirittura in quel 1972 vinse anche il premio come Best Male R&B Performance, non con questa canzone che ci andremo ad ascoltare adesso, che è il vinile che ho tra le mani, ovvero Walk On In, ma vinse questo premio appunto come miglior performance rhythm and blues maschile con A Natural Man. E invece noi ci andremo ad ascoltare questo singolo che è Walk On In, 1972, Lou Rawls, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Senti come viene funky Java. Somebody to look after you, and you're tired of living alone the way that you've been, yeah. Don't you worry, don't be shy. I want you to get to moving, moving. E invece non era solo prettamente soul, anche Lou Rawls, ma era decisamente funkeggiante anche lui quando voleva. E questa era la sua Walk On In del 1972. Rimaniamo più o meno sempre nelle stesse coordinate, sia musicali che di anni. Infatti questo è un altro singolo a 7 pollici del 1972, anche questo in versione originale americana, edita su Spring Records, che poi verrà prodotto attraverso la Polydor, e poi vi spiegherò il perché. E stiamo parlando di Joe Simon. E questo singolo che ho tra le mani è Glad to be your lover. E anche Joe Simon, dopo il classico apprendistato nei cori delle chiese battiste, iniziò la sua carriera di cantante professionista nel 1960. Dopo diversi singoli, la fortuna arrise a Joe Simon nel 1969 con il primo successo, ovvero con Choking Kind, che raggiunse addirittura la posizione numero uno nella classifica Rhythm and Blues, e riuscì addirittura a bissare il successo anche anche 2 anni dopo, nel 1971, con Drawing in the Sea of Love. E anche in questo 1972, a cui risale appunto questo singolo che adesso ci andremo ad ascoltare, che però non è la hit che è poi arrivata numero uno, ovvero Power of Love. Infatti ci andremo ad ascoltare Glad to be your lover. Però insomma anche questo 1972 fu un anno costellato di grandi successi, quantomeno nella classifica specifica del Rhythm and Blues per Joe Simon. E questo singolo, perché vi dicevo che è edito su Spring Records e pubblicato su Spring Records e poi distribuito dalla Polydor, perché la coppia di produttori che ha prodotto appunto questo singolo era una delle grandi coppie di produttori della musica soul di quegli anni, ovvero Gamble e Huff. E appunto andiamoci ad ascoltare questa Glad to be your lover di Joe Simon, 1972, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records sulle frequenze di Radio Wombat. Signor basso anche qua, eh? I'm so glad, I'm so glad to be your lover. Lonely girl, till you brighten up my Questo era Joe Simon con Glad to be your lover. E mi viene in mente una definizione che non so se i puristi mi potrebbero linciare, ma sarà forse perché ho appena finito di leggere un libro al riguardo, ma direi decisamente Northern Soul, questi ultimi singoli appena ascoltati. Però passiamo oltre, restiamo in America con una pianista, sempre nel 1972, andiamo in un ambito un po' più forse rhythm and blues, possiamo dire, e quella pianista in questione è Chai Coltrane, che non credo proprio c'entri niente con il grande John, anche solo per semplicemente per il fatto che fosse bianca, appunto. Però la pianista Chai Coltrane, che anche lei di Chicago, e prima di ottenere il successo si fece conoscere perché si imbarcò oltre Atlantico e fece il suo debutto partecipando come stella rappresentante degli Stati Uniti d'America all'International Rock Festival in Europa. Poi, riscuotendo appunto un discreto successo con questo festival, tornò negli Stati Uniti e venne scritturata dalla Sony CBS, e la sua prima hit, che appunto è proprio questo singolo che adesso ci andremo ad ascoltare, fu Thunder and Lightning, che raggiunse la posizione numero uno nella classifica cittadina di New York City, perché dovete sapere che in America hanno le classifiche anche solo per la singola città, ma raggiunse anche la posizione numero 17 nella classifica generalista di Billboard. Ora, mi sembrava strano appunto aver ritrovato un singolo del genere da quest'altra parte dell'oceano, poi ho scoperto che appunto questo brano entrò nelle prime posizioni in classifica anche in Germania ed in Olanda, e tra l'altro questa è una domanda che vorrei fare a Stefanone: non so come mai in quegli anni in Italia, oltre a seguire le classiche classifiche americane e inglese, un'altra delle classifiche nazionali di cui si teneva conto era appunto anche quella olandese, e appunto questa questo singolo Thunder and Lightning di Chai Coltrane riuscì a raggiungere la vetta della classifica olandese del 1972 e allora riesco a collegare come mai ho ritrovato anche questo CD dentro questo famoso sacchetto di 45 giri a 7 pollici disperso appunto dall'inizio degli anni 70 e andiamoci appunto ad ascoltare allora questa Chai Coltrane con Thunder and Lightning, sempre qui Basement Records, Radio Wombat. Grande tiro comunque questa Thunder and Lightning di Chai Coltrane 1972 e il prossimo singolo a 7 pollici che si appresta ad appoggiarsi qua sul giradischi della regia del Wombat è un singolo dell'anno successivo, siamo nel 1973. E magari il nome lì per lì non vi, come a me non vi dirà granché, infatti è Ronnie Dyson, tranne poi scoprire che Ronnie Dyson, anche lui nativo di Washington, iniziò come una grandissima parte, come tantissimi artisti neri, iniziò a cantare nei cori delle chiese, come già detto più volte, insomma un grande classico. Se non che a 18 anni si spostò a Broadway e vinse il concorso per diventare la voce di un musical che ha avuto, diciamo, un piccolissimo successo. Sto parlando di Hair, quindi appunto è già qui abbiamo fatto tutti i collegamenti. Infatti la voce di Ronnie Dyson è la voce che è registrata nel singolo di successo planetario dei decenni della storia proprio dei musical di Broadway, ovvero la sua voce è la prima che si sente nello singolo di strasuccesso di Aquarius. Infatti lui è proprio quello che dice "When the moon is in the seventh house and Jupiter align with Mars". Ok, ora so che vi sarete forati i timpani con qualunque oggetto vi sia capitato sotto le mani in questo momento, ma perdonatemi. Insomma, è proprio lui, è Ronnie Dyson. E questo singolo, scusate per la performance vocale, questo singolo è il suo successivo lavoro dopo il grande successo appunto del musical Hair. Questo singolo appunto si chiama One Man Band Plays All Alone, che è stato fatto uscire appunto nel 1973 ed è stato prodotto niente po' di meno che da il grande produttore arrangiatore del Philly Sound, del classico sound di Filadelfia, Tom Bell. Quindi mettete insieme tutte queste cose, fate un'addizione ed il risultato è quello che ci andremo ad ascoltare a brevissimo, ovvero Ronnie Dyson con One Man Band Play All Alone, sempre qua, Basement Records, Radio Wombat. Inside a crowd, a stranger everywhere. Everyone I've ever known has disappointed me. I live and breathe only for me. No one's ever been inside the walls surrounding me. I depend on me, myself, to keep me company. No one cares about me, so I take good care of me. I'm in a world all of my own. About me, and each man is the master of his own destiny, and I can surely best determine what is right for me. If I had the chance to change my life, I wouldn't dare, doing okay, living this way. Oh, woman, Ronnie Dyson con One Man Band Plays All Alone. E appunto, di bomba in bomba, andiamoci a mettere sopra il giradischi anche il prossimo singolo a 7 pollici, che è un altro, devo dire, anche loro assolutamente ospiti fissi quando li ritrovo nei recuperi vinilici. Stiamo parlando dei Four Tops, quartetto vocale a livelli stellari di casa Motown. Parlando appunto di produttori, ve l'ho menata fino adesso, prima con Tom Bell, prima ancora con Gamble and Huff, questo che ci andremo ad ascoltare appunto adesso dei Four Tops è un altro dei grandissimi classici sfornati da quella fabbrica di successi che erano gli autori Holland, Dozier e Holland. Veramente un trio che ha marchiato a fuoco il soul e il rhythm and blues di casa Motown per veramente tantissimi artisti, e qui siamo tra i grandi di casa Motown, ovvero con i Four Tops. Credo che ormai non ci sia neanche più bisogno di presentarli ulteriormente. Questo è un loro brano, un loro singolo del 1967, ovviamente anche questo finito chiaramente in classifica, sia nella classifica generalista al numero 14 che chiaramente nella top 10 della classifica Rhythm and Blues. Ebbe anche un grande successo in Inghilterra, dove raggiunse fu il loro settimo successo che entrò nella top 10 della classifica inglese. E tra l'altro, nota a margine, oltre di questo brano, che ancora non vi ho detto come si intitola, ma è Seven Rooms of Gloom, appunto dei Four Tops, nota a margine, ennesima nota a margine di questo pezzo, è che la band di accompagnamento dei Four Tops, in questo caso, erano i già stati nominati svariate volte Funk Brothers, ovvero la house band di casa Motown, che voglio ricordare avevano i leader dei Funk Brothers, erano dei giganti della musica black come Earl Van Dyke e Joe Hunter, e tra i chitarristi di questo brano in particolare, di Seven Rooms of Gloom, c'era anche Dennis Coffey, che avevamo ripescato appunto nella precedente puntata di Basement Records, quando ci siamo ascoltati e recuperati quel singolo che Dennis Coffey aveva inciso insieme alla Detroit Guitar Band. Appunto, i Funk Brothers erano la house band di casa Motown, e vale la pena di ricordare anche le altre due house band dell'etichetta tra virgolette rivale in ambito black music, ovvero della Stax Records, che erano niente po' di meno che altri pesi massimi della musica black, come i Bar Keys e i Booker T and the MGs. Loro ovviamente di distanza in casa Stax. Qua siamo dall'altra parte della barricata, siamo in ambito quella che ancora si chiamava Tamla Motown. Loro sono i leggendari Four Tops, e questa è Seven Rooms of Gloom. Recuperi vinilici di Basement Records, Radio Wombat. 1967. Pezzone ovviamente dei Four Tops. E passando al prossimo singolo, come mai vi ho attaccato come mio solito quel pippone appunto sulla le backing band tra Motown e Stax, se quella di prima era Motown, cosa c'entrava a mettere sempre nel mezzo anche la Stax, proprio perché appunto il prossimo singolo che andremo a mettere sul piatto per fare pari sarà della Stax Records, perché ovviamente, anzi fortunatamente, dentro questo sacchetto di vinili di recupero è presente un 45, un 7 pollici della Stax Records. Ora probabilmente ce ne sarà anche più di uno, però non è che voglio svelarvi proprio tutto così e spiattellarvi tutti i segreti delle prossime puntate o delle precedenti per non andare a farvele riascoltare. Però appunto, fortunatamente, c'è anche un singolone della Stax Records con uno dei pesi massimi di Casa Stax, ovvero il grande Isaac Hayes. E che dire, questo forse non è sicuramente uno dei brani più conosciuti del grande Isaac Hayes. Anzi, è un singolo sui generis, perché prima di tutto è uno strumentale. Seconda di poi, non è scritto da Isaac Hayes, ma la versione originale è di un altro gigante della black music come Al Green. Infatti questo pezzo è Let's Stay Together. E allora mi direte voi, cosa c'entra Isaac Hayes se il pezzo è stato scritto da Al Green, quindi è uno strumentale, lui non canta, la band che suona appunto insieme ad Isaac Hayes sono i mitici Bar Keys, che vi stavo nominando appunto prima. Non è che proprio dato di fuori completamente come avreste potuto immaginarvi. Appunto, i Bar Keys sono quelli che suonano, non c'è la voce. Il pezzo originale è di Al Green, e quindi come mai è a nome Isaac Hayes? Perché comunque è stato riarrangiato da Isaac Hayes, e Isaac Hayes invece che alla voce è in questa veste inusuale di sassofonista. E questo pezzo del 1972 di Casa Stax, a nome di Isaac Hayes, è Let's Stay Together, e andiamocela ad ascoltare immediatamente, che è già qui pronto sopra il deck. E andiamo con Casa Stax, sempre qui ai recuperi vinilici di Basement Records su Radio Wombat. Isaac Hayes, Let's Stay Together, Stax Records, Bar Keys. Come avrete potuto notare, non era interamente strumentale, ma in realtà dietro c'era anche il coro. Comunque Isaac Hayes non canta, ma appunto è al sax. E adesso andiamo al prossimo singolo, al prossimo 7 pollici che ci andremo ad ascoltare nella puntata di stasera. Restiamo sempre in territorio americano, avanziamo di un anno nel 1973. Questo è un disco della Green Thumb Records, loro sono i Crusaders, e è bene fare un po' una puntualizzazione sui Crusaders, perché certo non è che abbiano avuto proprio la stessa fama di Isaac Hayes oppure dei Four Tops. E pensate che inizialmente i Crusaders si chiamavano Jazz Crusaders, perché in realtà erano nati all'inizio degli anni 60 come band jazz, appunto, unendo le forze del pianista Joe Sample con il sax tenore di Wilton Felder, le bacchette di Neston Styx Hooper. Si trasferirono a Los Angeles e appunto formarono un quintetto jazz con diversi personaggi a tenere le corde del basso. Inizialmente appunto la loro musica era fortemente influenzata da jazzisti come Cannonball Adderley, Art Blakey e John Coltrane, e appunto all'inizio degli anni 60, nel 1961, firmarono per la Pacific Jazz Records e riuscirono a pubblicare un notevole numero di album, addirittura 16 album nei seguenti 8 anni di produzione, una media di un album ogni 6 mesi, con la loro frontline fiatistica, con la loro sezione fiatistica formata da Felder e Anderson. Il sound del gruppo era fortemente orientato verso l'hard bop, ma con sfumature predominanti che li portavano anche verso una direzione del rhythm and blues e del soul. Poi nel 1970 presero la decisione di cambiare il nome del gruppo semplicemente in Crusaders, in modo da poter attirare altri potenziali ascoltatori. Ed è qui appunto che entriamo in gioco con il singolo che adesso ci andremo ad ascoltare. Infatti nel 1972 verranno scritturati dalla Blue Thumb Records e il loro suono si indirizzerà verso quelle che sono le sonorità di quegli anni 70, ovvero lasceranno le rive dell'hard bop per approdare sui lidi appunto degli anni 70 con una forte impronta jazz funk, ed è per questo che tra l'altro ve li ho messi nella selezione di stasera. E tra l'altro poi per fare questo rinnovamento sonoro includeranno nella loro backline anche la chitarra elettrica, il basso elettrico e ovviamente il piano elettrico. Passarono proprio ad uno stile, quello stile jazz funk appunto che Miles Davis aveva, di cui Miles Davis aveva spalancato le porte in quella fine degli anni 60, inizio degli anni 70, e in cui i Crusaders si gettarono a capofitto, e questo singolo che ci andremo ad ascoltare adesso, ovvero Journey From Within, è un singolo estratto dal loro secondo album, appunto del 1973, intitolato The Second Crusade. Loro sono i Crusaders. Questa è Journey from the Within 1973, e siete sempre tra nei vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat. The Crusaders. Thank you. Che bomba, i Crusaders! Con Journey from the Within, 1973, appunto dal loro, non vorrei dire una baggianata, dal loro quarto album da quando cambiarono il nome in semplicemente in Crusaders. E adesso siamo arrivati al momento dell'ultimo vinile selezionato per voi per chiudere questa puntata di Basement Records. Ovviamente si finisce con un altro grande classico sia di Basement Records, ma devo dire anche di Tonight Alive, visto che mica per niente ci ho fatto un'intera puntata monografica, quindi non vi starò a dire praticamente niente riguardo alla discografia e alla biografia di questi giganti dal nome di Sly and Family Stone. Se ne volete sapere di più, mica per niente, andatevi a recuperare appunto tra i podcast di Radio Wombat, andate a cercare tutti i podcast di Basement Records e di Tonight Alive che sono insieme, e scorrendo indietro tra tutte le puntate fatte troverete anche una puntata monografica su Sly and the Family Stone, anche se sono capitati anche diversi singoli tra quelli recuperati a Basement Records. Questo singolo non è proprio è sicuramente un singolo famosissimo della discografia di Sly and Family Stone, ma magari proprio non è una delle loro canzoni considerate classiche, anche se in quel 1969 questo Hot Fun in the Summertime ebbe, proprio per una questione temporale, uscì pochissimo prima della loro storica e leggendaria esibizione sul palco di Woodstock, e lì proprio decollarono a livello di popolarità. Però insomma anche questa Hot Fun in the Summertime raggiunse le primissime posizioni delle classifiche in tutto il mondo. Nella classifica americana riuscì ad arrivare, nella classifica generalista americana riuscì ad arrivare al secondo posto solamente perché il primo posto era occupato da Can't Get Next to You dei Temptation. Però insomma un grandissimo successo in tutto il mondo, come potrebbe essere meno, visto che stiamo parlando di quei geni di Sly and the Family Stone. Andiamocela ad ascoltare. 1969, Sly and Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Basement Records, Radio Wombat. Era Hot Time in Summertime, l'ultimo brano, l'ultimo singolo a 7 pollici a 45 giri della puntata di stasera. Adesso vi saluto, siamo giunti ai saluti, ma come sempre sapete che sono un abitudinario, non prima di aver ricordato gli appuntamenti del palinsesto di Radio Wombat per la giornata di domani, la classica domenica, sulle frequenze di Radio Wombat, che inizieranno alle 9 la mattina con la replica di Lezioni Universali d'Esistenza, poi il classico appuntamento del pranzo domenicale con la diretta del notiziario anticlericale e poi il consueto finale di giornata alle 21:30 con il furto di trasmissione altrui, che, come amo ripetere, è un furto in senso lato, perché sono trasmissioni di radio amiche e gemelle, sorelle e fratelle, che dopo un attento ascolto e selezione selezioniamo un programma appunto di queste radio, delle radio amiche, e lo riproponiamo qua nel territorio toscano, anche nel territorio toscano di competenza di Radio Wombat appunto. A questo punto, come sempre, non posso fare altro che augurare a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento di sabato sera, un buon weekend, un buon proseguo qua sulle frequenze di Radio Wombat, e per quanto mi riguarda personalmente ci risentiremo per la replica di questa trasmissione, come mi piace ricordare, il martedì alle ore 21, e poi come sempre la ormai classica diretta da anni che non è mai cambiata, il sabato sera alle ore 10:30, mi raccomando, puntuali per le consuete trasmissioni o di Basement Records o di Tonight Alive. Per quanto mi riguarda, non voglio svelarvi la sorpresa su quale sarà la prossima trasmissione della prossima settimana, appunto. Basta con questi intortamenti, un buon proseguimento a tutto, viva Radio Wombat! Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica,